Sura 83esima. Al-Mutaffifin. I frodatori. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Guai ai frodatori che quando comprano esigono colma la misura, ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano. Non pensano che saranno resuscitati in un giorno terribile, il giorno in cui le genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi? No, in verità il registro dei peccatori è nella segreta. E chi mai ti farà comprendere cos'è la segreta? È uno scritto vergato. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna, che tacciano di menzogna il giorno del giudizio. Non lo taccia di menzogna altri che il peccatore inveterato, che quando gli sono recitati i nostri versetti dice: favole degli antichi. Niente affatto, è piuttosto quello che fanno che copre i loro cuori. Niente affatto, in verità in quel giorno un velo li escluderà dal vedere il loro Signore, e poi cadranno nella fornace. Sarà detto loro: ecco quello che tacciavate di menzogna. Niente affatto, il registro dei caritatevoli sarà nelle altezze. E chi mai ti farà comprendere cosa sono le altezze? È uno scritto vergato. I ravvicinati ne renderanno testimonianza. I giusti saranno nella delizia, appoggiati su alti divani guarderanno. Sui loro volti vedrai il riflesso della delizia. Verranno un nettare puro, suggellato con suggello di muschio. Che vi aspirino coloro che ne sono degni. Un nettare mescolato con tasnim, fonte di cui verranno i ravvicinati. Inveri malvagi schernivano i credenti. Quando passavano nei loro pressi si davano occhiate, ritornando dalla loro gente si burlavano di loro. E quando li vedevano dicevano: davvero sono fuorviati. Certo non hanno avuto l'incarico di vegliare su di loro. Oggi invece sono i credenti a ridere dei miscredenti. Appoggiati su alti divani guarderanno. I miscredenti non sono forse compensati per quello che hanno fatto?